America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, buon primo maggio innanzitutto e soprattutto buona inaugurazione di Expo 2015. Auguri che arrivano anche dal presidente Barack Obama. Sentiamolo quando ha parlato dell'Expo durante l'incontro con Renzi. And finally I want to congratulate Italy and the people of Milan as they prepare to host the 2015 World Expo. The focus is on food. Something that Italy knows something about. Ecco, hai sentito Barack Obama, mi congratulo con l'Italia per l'Expo 2015 focalizzato sul cibo, qualcosa dice, cioè il cibo che l'Italia conosce molto bene. Ecco, la questione alimentare naturalmente è una cosa che anche l'America conosce molto bene. Il tema scelto dall'Expo sulla sostenibilità alimentare nel senso più lato del termine, vista in tutte le sue manifestazioni, da quella agricola, quella della produzione alimentare, a quella dell'accesso ad acque potabili e così via, è un problema che conosce molto bene anche l'America per tutti i vari aspetti legati a cattiva alimentazione, difficoltà di alimentazione. Pensate soltanto a un problema che ha l'America e che noi non abbiamo, abbiamo molto meno in questo momento, cioè quello dell'obesità. Tra il 1990 e il 2010 è aumentata in modo drammatico e oggi più di un terzo degli americani, quindi il 35,7%, è obeso. Under thousands of tanks and pipes, workers in Carlsbad, California are putting the final touches on what some hope will be the state's answer to its three-year-old drought. L'altro problema è quello della siccità in California. Avete sentito il newscast? C'è un grande allarme, non c'è acqua in California. Il governatore ha annunciato delle misure drastiche, e cioè un limite all'uso dell'acqua. Non si potranno innaffiare i prati, non si potrà usare l'acqua tenendo il rubinetto aperto e così via. Dunque, questi temi dell'Expo 2015, temi su cui poi si ragionerà, ci saranno dei dibattiti, delle analisi, dei rapporti scientifici, sono fondamentali per impostare anche dal punto di vista americano quello che è il percorso futuro e per cambiare questa strada impervia, difficile, su cui si sta muovendo anche l'America, una strada impervia che ha deciso di imboccare per contribuire a una soluzione o comunque ad alleviarla in prima persona la First Lady, che ha lanciato la sua campagna Let's Move, che vuole raggiungere l'obiettivo di contrastare l'obesità infantile con la cultura del movimento, dell'esercizio, ma anche con ovviamente un messaggio per una buona alimentazione, per una alimentazione sana. Sentiamo Michelle Obama. Tells the story of not just our garden but what folks are doing in communities all across this country. Ecco, qui Michelle Obama parla del suo orto, l'orto alla Casa Bianca. Ha voluto dare il buon esempio di buona alimentazione sana, biologica, eccetera, eccetera, con la creazione di un orto col suo chef preferito alla Casa Bianca. E Michelle dice: useremo quest'orto come esempio educativo per parlare di salute e di quanto è buono il cibo fresco e di quanto sia importante fare affidamento a cibi che fanno bene alla nostra salute. Questo orto alla Casa Bianca, 139 metri quadrati, all'inizio, pensate, è costato solo $200, è stato creato nel 2009. Ci sono 55 varietà di verdure, peperoni, pomodori, spinaci, insalate, bietole, eccetera, eccetera. E hanno aggiunto anche un alveare recentemente. E c'è anche il messaggio di mangiare local, messaggio che per noi ovviamente è molto importante, perché gli americani usano i nostri marchi alimentari per poi venderli facendo finta che siano fatti in Italia, e questo è un problema commerciale che dovremo affrontare e che sarà affrontato anche nel corso dell'Expo. Ecco, questo è il contesto d'insieme che ha spinto, che ha creato l'onda lunga per la partecipazione americana col suo padiglione. Sentiamo John Kerry. Innovation is the lifeblood of the United States. And as a global leader in advancing food security, we're very eager to seize the opportunity to get involved in a major way. Ecco, va chiarito che il Dipartimento di Stato e il governo americano non danno fondi per la partecipazione all'Expo. Tutto quello che è stato raccolto per finanziare il padiglione americano all'Expo è stato raccolto privatamente con l'aiuto, l'incoraggiamento del segretario di Stato. Avete sentito la voce di Kerry? Io ero al Dipartimento di Stato quando c'è stata la posa della prima pietra del padiglione americano, eravamo in collegamento diretto con Milano, e Kerry dice che gli scienziati affermano che bisognerà aumentare del 60% la produzione di cibo. Occorre farlo, dice, in modo sostenibile. Il punto è che non possiamo fare nulla senza innovazione. Siamo orgogliosi che l'innovazione faccia parte del nostro DNA, una definizione di America. Ecco, anche una definizione, secondo alcuni, polemica, secondo me no, perché gli Stati Uniti hanno cibo modificato geneticamente, cosa che, se controllata bene in laboratorio, non provoca alcun problema di nessun genere. Eppure, beh, ci sono coloro che pensano che chissà quali avvelenamenti siano fatti nel contesto di queste ricerche scientifiche. So, but the idea that this is, the road, the notion of the road and the American fascination with the road and the American fascination of food, not just in trucks, but along the road, roadside food. E veniamo al padiglione, il padiglione americano Expo 2015, James Bieber e l'architetto che lo ha realizzato, lo ha disegnato con grandi sensibilità ambientali, è stato realizzato in modo green, perché ci sono per esempio elementi in questo padiglione come la passerella centrale che è stata realizzata con il legno che copriva il lungomare di Coney Island, che è stato poi riciclato. Ma la cosa più interessante, secondo me, lo vedrete quando sarete in visita, è questa enorme parete di 7200 metri quadri che è una vera e propria fattoria verticale. L'idea, una delle idee per ottimizzare lo spazio e le coltivazioni, è di fare queste fattorie verticali, cioè queste grandi pareti dove c'è terra e dove ci sono coltivazioni. In questo modo si può avere un orto, un campo coltivato, non è necessario avere degli spazi sterminati, e però si possono sfruttare queste soluzioni verticali, una soluzione naturalmente provocatoria. Il padiglione, come vi dicevo, è stato concepito come un grande spazio aperto, celebrativo dei classici granai della tradizione americana, enorme, circa 35.000 metri quadrati, vuole mostrare come il ruolo degli Stati Uniti può aiutare per sfamare il paese. C'è una strategia diversificata nel perseguimento del messaggio del padiglione, come vi dicevo, sostegno ambientale e responsabile, studi nutrizionali, scientifici, tecnologici. Ci sono i cuochi, perché poi la cucina americana non è solo hamburger, la cucina americana è buonissima, e ci sono una cinquantina di grandi chef che a rotazione verranno a Milano e faranno gustare questa cucina, tra cui Cesare Casella, Tom Colicchio, José André, Dan Barber, Lidia Biastanic e Mario Battali, che sono partners in America di Italy. Ci sono anche FCA, Fiat Chrysler Automobile e Case New Holland, quindi Marchionne e il gruppo Exor sostanzialmente, che hanno dato un forte contributo per la raccolta fondi. Ecco, raccolta fondi su cui c'è molta segretezza, però io sono riuscito a ricostruire qualche cosa, perché ci sono ancora un po' di problemi, bisogna continuare a raccogliere questi fondi sollecitando i privati. Il budget totale era di circa 60 milioni di dollari, diciamo, per costruire il padiglione, ma anche per sostenere i costi di gestione, per sostenere i costi degli eventi. Ecco, finora mi risulta sono stati raccolti fisicamente circa 35 milioni di dollari che servono sia alla costruzione, e però bisogna raccogliere altri fondi per garantire che siano coperti anche i costi della produzione alimentare, perché per esempio il costo di tutto il cibo che sarà prodotto in questi mesi è stimato in circa 15 milioni di dollari, poi però la gente va, compra questo cibo e aiuterà in qualche modo a ripianare le perdite. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Non è una canzone di primo maggio, ma una canzone in tema con Expo 2015 a Milano, visto dall'America. Tom Waits, Eggs and Sausage, il classico breakfast americano, uova e salsicce. Nighthawks at the diner, Emma's 49er. There's a rendezvous of strangers around a coffee in the night. All the gypsy hacks and the insomniacs, now the paper's been read. Now the waitress said, eggs and sausages and a side of toast, coffee and a roll. Browns are what easy. Chili in a bowl with burgers and fries. What kind of pie? It's a graveyard charade. It's a late shift masquerade. And it's two for a quarter, dime for a damn. da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Felice, happy 1° maggio. Goodbye and get going.